fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eh sì, bentornati di nuovo su Ristoradio Convento, un altro sabato sera dinner and dance che stiamo vivendo qui. Come ci piace dire, la nostra gioia è quella di fare festa insieme ai nostri ospiti, ai nostri clienti, che poi clienti non lo diventano più perché in pochi minuti si diventa amici subito. Ma come diciamo spesso, non è solo il protagonista della festa che ci interessa conoscere e sentire, ma anche chi come dire, fa da contorno, anche se contorno è brutto definirlo perché sono parte integrante propria della, della festa stessa, cioè amici, invitati e coloro che conoscono al meglio il festeggiato. Questo è il caso, abbiamo qui tre ragazzi che stanno festeggiando non in prima persona ma per interposta persona, e sono venuti a salutare il loro amico, il loro festeggiato. Vai, andiamo a conoscerli. Come vi chiamate? Elia. Angelo. E Nicolas. E Nicolas, molto bene. Venite da dove? Da Vicenza. Brogliano Vicenza. Brogliano Vicenza, molto bene, molto bene. Vai, raccontateci voi il motivo della vostra festa e cosa vi ha portati qui. E allora, siamo capitati qua, non lo sappiamo. Tanta voglia di far festa, non c'è un vero e proprio motivo. Ah, no, non ce l'hanno, non ce l'avete. No, siamo venuti per il matrimonio, c'è il nostro amico d'infanzia che si sposa. Ok. Si sposa. E a gennaio, il 3 gennaio. E allora siamo venuti qua a farla del celibato. Perfetto, come si chiama lui? Gary. Gary, perfetto. E vabbè, anche lui di Vicenza, dalle vostre regioni. Ok, ok, perfetto, perfetto. Come si chiama la futura moglie? Non lo sappiamo. Beh, vabbè. Tipico matrimonio di cultura indiana, quindi non siamo venuti a conoscenza della sposata, però. No, ti dico, no, te lo dico io com'è, perché poi l'ho sentito prima, è che voi il nome lo sapete, ma è parecchio difficile, quindi non riuscite a ricordarlo. Quella è quella la differenza. L'ho sentito anch'io prima, ma è complicatissimo. Sono bellissimi i nomi indiani perché sono molto affascinanti, però è complicatissimo da ricordare. E quindi è questo il reale motivo. No, è vero, hai pienamente ragione, però guarda, noi veramente non sappiamo il nome della sposa. Ah, non lo sapete veramente? Veramente. Siete, come dire, completamente all'oscuro. Completamente all'oscuro, sì. E come mai? Come mai? Questo locale. E come mai non conoscete il nome della futura sposa? Boh, così. Lui è nostro amico, ma la sposa non è nostra amica, non lo sappiamo. Ok, quindi non vi ha messo a conoscenza del nome, ma solo del motivo della festa. La conosceremo. Beh, sarà magari una sorpresa, no? Esatto. Come, facciamo così, ma ve l'ha descritta magari un po'? Ne ha parlato? Sì, ma indipendentemente dalle foto, ve ne ha mai parlato, vi ha raccontato qualcosa? Sì. Allora come ve la immaginate? Una bella ragazza indiana. Simpatica. Secondo me è simpatica. Sì, dici che è simpatica? Caratterialmente molto forte. Forte, ok. Molto forte. Visto che ha fatto l'università, c'è dentro il nostro amico. Vedi che un, molto sembra stretta, molto stretta la cultura comunque. Sembra, ma indizi ne avete tanti. Sì, sì, qualcuno sì, okay. Però non sappiamo il nome. Beh, però vedi che comunque già è come se la conosceste. Dai. Quindi secondo me è difficile qua svegliare. No, non me lo ricordo. Cioè me l'ha detto ma non me lo ricordo. No, aspetta che però posso andare a controllare. Vediamo se mi va bene. Se sono fortunato, non è detto che lo sia. Nishu. No. Potrebbe essere. No, è quella, te lo dico io. È Nishu perché me l'ha dettata parola per parola quando è entrato. Quindi sono abbastanza sicuro. Sì, Gary me l'ha dettata, quindi adesso potete giocarvi, cioè nel senso potete fare i brillanti quando andate in giro e dire Nishu, cavolo, Nishu, cioè si sposa Nishu, chi vuoi che si sposi? Grande. E vedi, è per quello che dicevo, un bel nome, però comunque come fai a ricordarti Nishu? Che poi in realtà non è Nishu, Nishu è tipo un soprannome del suo nome, perché è ancora più complicato. Ah, ok, vedi, preparato. Come preparato. Gary, ad esempio, anche il nostro amico, noi lo chiamiamo Gary da sempre, ma si chiama Gurmuk. Ah, beh, giustamente Gary è più. Nome, poi. Sì, italianizzato. Più che italianizzato, diciamo, è semplificato per essere comprensibile a tutti. Ok, volete mandargli un messaggio, dirgli qualcosa, approfittando appunto del microfono? Io vorrei dire una cosa al nostro amico. Fighe sei tempo, ripensaci. Perfetto, anche perché se no, io non sapendo come si chiama la sposa, poi difficile. Io Nishu, merda però. Beh, facciamo, sì, accogliamo questo, quello che ha detto Angelo, siamo tutti d'accordo. Ma sicuramente verrà fuori un bellissimo matrimonio. Sicuramente, aspetta, dico un'altra cosa, anche al suo fratello Sunny. Sì? Fratello di Gary e Sunny, aspetta un'altra chance. mi raccomando. Abbi pazienza. Tempo al tempo. Dai tempo al tempo tu. Bene, sono cose che capite voi, giustamente. Sì, sì. Giusto che sia così. Va bene, allora salutiamo anche noi Gary, gli facciamo tanti auguri. Salutiamo soprattutto i suoi amici che sono passati qui a salutarlo e a raccontarci un po' di lui e anche di lei. Vedi che dal niente abbiamo capito anche qualcosa di più della sua futura moglie Nishu. Grazie ragazzi e buona fine festa qui al convento. Grazie. E la festa non finisce mai comunque. Ciao. Ciao.